Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Ai microfoni, finalmente, Anna e Cristian. Ciao Anna. Ciao Anna Christian, Zampieri, ciao a tutti. Dell'ACR Diocesana di Treviso. Allora, bentornata, perché appunto la settimana scorsa avevamo anche un ospite addirittura da Milano, una signora da Milano, insegnante, che ci ha un po' raccontato cosa stava vivendo appunto nella città lombarda. C'era appunto il convegno mondiale delle famiglie, quindi ci ha un po' illustrato le finalità, gli incontri e anche appunto le alcune riflessioni che tra famiglie, tra queste commissioni, sono state fatte durante queste giornate, questa settimana, che ha avuto ovviamente come suo momento conclusivo la Santa Messa con il Santo Padre a Bresso. Allora Anna, tu dov'eri mentre io stavo intervistando la signora di Milano, Lilia, che ricordiamo appunto insegnante anche di un istituto professionale di della città appunto lombarda? Io ero a Roma per lavoro, allora, un seminario. Io idealmente ero a Milano e tu eri a Roma. Un seminario. È stato interessante, è stato bello. Sì, che argomenti sì. avete trattato? Dimmene qualcuno. Beh, allora diciamo che intanto il seminario, siccome appunto io lavoro in una cooperativa sociale che si occupa di accoglienza a rifugiati e richiedenti asilo, quindi all'interno della rete SPRAR, che è appunto il sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, allora questo seminario era rivolto in particolare a tutti gli operatori che sul territorio nazionale, quindi, fanno come me questo lavoro. E allora la domanda grande da cui si partiva era: che cosa bisogna fare per avere un sistema d'asilo che funzioni? E quindi poi venivano proposti dei gruppi di lavoro ed erano direttamente gli operatori, ecco, che proponevano questi gruppi, e poi coloro che erano interessati a trattarli si sceglievano in quale gruppo andare. Quindi è stata anche una cosa che ci ha interessati e coinvolti in prima persona, dove ognuno era libero di fare le proprie considerazioni, anche parlare della propria esperienza nella cooperativa. E ti sei divertita? Mi è piaciuto, sì. Beh, insomma, eri anche a Roma, sei riuscita ad andare anche a fare un bel giro Roma by night. Sì, ho camminato per 3 ore alla sera, perché con me c'era un'altra collega che lei è appassionata anche di visitare le grandi città, quindi Roma offre tantissimi Roma è straordinaria, spunti, veramente. E quindi ci ha fatto vedere un po' di cose, quindi abbiamo camminato 3 ore, però ne è valsa la pena. Mi ricordo sempre quella volta, la prima volta che sono andato a Roma e dovevo spedire le cartoline, c'era una bellissima cartolina, Roma by night, ed è la classica cartolina che trovi anche a Firenze, in altre città italiane e anche città, diciamo, europee. E cosa era questa cosa? Rappresentava Roma by night, ovviamente, una fotografia completamente nera con la scritta sotto Roma by night. D'altronde è notte e quindi non ci sono le luci, cosa vedi? Quasi niente. Invece Roma di notte è veramente bellissima. Forse non dico che sia bella quanto il giorno, ma ci siamo molto vicini, anche perché Roma non chiude mai, fondamentalmente. Io ci sono state diverse volte e anche, non so, a mezzanotte, l'una, trovi qualche osteria, qualche piccolo ristorante aperto dove puoi mangiare, degustare e fare soprattutto qualche chiacchiera, perché i romani sono molto aperti, molto accoglienti. Sì, quindi, molto solari, se c'è vero. Qualcuno che ci sta ascoltando, che magari passa per le nostre, diciamo, strade, per il nostro Veneto, ma è romano e ovviamente per motivi di lavoro magari, o per motivi appunto di piacere, sta attraversando, diciamo, i nostri territori, li salutiamo caldamente, gli diamo un grande abbraccio, perché tutte quelle volte che sono andato a Roma non sapevo dove dovevo arrivare. Avevo un albergo, però Roma è così grande e ho sempre trovato qualcuno che mi ha insegnato la strada. Guarda che questa non è retorica, è verità assoluta. Quindi ringrazio appunto la romanità, l'essere romano, che è sempre ed è un fiore all'occhiello della nostra italianità anche. Bene, Anna, quando andiamo in onda noi? Fuori di noi è una trasmissione dedicata al mondo degli oratori, al mondo giovanile. Collaborazione, l'abbiamo già detta, tra oratori, Azione Cattolica, che si è concretizzata, abbiamo concluso la settimana scorsa, con l'ACR di Biadene, questa collaborazione almeno per quanto riguarda questa stagione. Ma noi andiamo in onda quando? Il sabato alle 14 e la domenica alle 12.30, naturalmente su Blu Radio Veneto. Ragazzi appunto dell'ACR che adesso stanno concludendo le proprie attività, tanti appunto sono in dirittura d'arrivo perché faranno la... festa, diciamo, di chiusura delle attività pastorali parrocchiali in tutte le nostre parrocchie, e anche il Noi sta facendo una chiusura momentanea perché sta riaprendo e sta aprendo, e nel vero senso della parola, perché nei prossimi giorni inizieranno i Greste in tante parrocchie. Una volta iniziavano a luglio, quando appunto la scuola era terminata e si lasciava magari qualche settimana di assestamento, invece adesso si inizia a giugno, perché a luglio ci sono già qualche altra proposta, che sono appunto le proposte estive, che magari poi nella seconda parte del programma Anna, per quanto riguarda l'Azione Cattolica, ci illustrerà un pochettino quali sono appunto le iniziative per quest'estate dal punto di vista formativo proposte dall'Azione Cattolica, e noi racconteremo un po' anche le feste proposte dal Noi per godere, per vivere insieme il Greste di quest'anno, che si chiama Stella. Ma tu hai scelto già un brano musicale, Anna? Sì, un po' datato, ma spero che piaccia, insomma, mi piace. E la nostra molto. Regia Eddie Daici l'ha già trovato e sta partendo. Annuncialo, Anna. Start Me Up dei Rolling Stones. E via con i Rolling Stones. E siamo ritornati con Start Me Up, cioè quasi dà una carica nostra canzone, perché dice svegliamoci, dai, cominciamo, alziamoci, no? Giusto. È vero? E questa è la traduzione letterale, Anna? Sì, sì. Ma l'hai scelta allora perché dobbiamo svegliarci in questo sabato, in questa domenica, in questi giorni appunto di estate che sta arrivando? Ha detto che avremo un caldo africano. Sinceramente io sono un po' stupito, perché delle volte sono 35 gradi, poi con una pioggia si abbassa a 13 e io sono un po' sfasato. Sì. Lo sono sempre, ma in maniera particolare in questo periodo. Allora Anna, abbiamo un ospite un po' particolare, non lo intervistiamo, ma prendiamo spunto appunto da una un incontro che ha fatto a Jesolo proprio quest'anno, il Palaturismo. E stiamo parlando della festa dei giovani che viene organizzata dai salesiani, dal movimento giovanile salesiano. Però non vi partecipano solo ragazzi provenienti dall'MGS, ma anche ragazzi delle nostre parrocchie, della diocesi di Treviso, di Padova, di Venezia. Perché ormai è un appuntamento classico dove ci sono tanti stand, c'è un momento appunto dove c'è un ospite che fa una piccola, diciamo, relazione e riflessione, ed è così coinvolgente che diventa appunto un appuntamento annuale che le parrocchie mettono in calendario. Quest'anno avevano come ospite Alessandro D'Avegna, non so se ne hai sentito parlare, io l'ho anche incontrato in quel di San Donà, perché è venuto a presentare l'anno scorso il suo libro, un libro che ha avuto un successo incredibile, edito da Mondadori, facciamo pubblicità, ma è molto bello questo libro, e si chiama Bianca come il latte, rossa come il sangue, e parla appunto di una storia tra adolescenti, in cui, e tra questi due adolescenti che raccontano un po' le loro vicende, c'è un professore che in qualche maniera li ispira. Mi sa un po' da Attimo Fuggente, mi sa anche un po' di educazione, ma è talmente bello il libro che ti invito appunto a leggere se magari non hai ancora avuto l'opportunità. Ma in questo incontro con i giovani erano più di 6.000 i ragazzi presenti al Palaturismo di Jesolo quest'anno, e ha detto qualcosa di molto importante, e io vorrei riportare alcuni pezzi di questo intervento dedicandoli agli animatori, gli animatori che si stanno preparando per animare i Grest delle nostre parrocchie, o magari appunto animatori ed educatori che si preparano per i campi scuola dell'Azione Cattolica sempre per quest'estate. Vediamo appunto di lanciare questi contributi, sono 3 contributi, e facciamo magari alla fine di ogni contributo una piccola riflessione, un piccolo messaggio. Sì. Quando avevo 16 anni, una sera sono tornato a casa e cercavo, come tutti voi, l'ennesima scusa per non fare i compiti. E la miglior scusa è la televisione, cioè almeno ai miei tempi era la televisione. Ho acceso e c'era un film in cui un insegnante faceva lezione, quel film era L'attimo fuggente. Quella sera ho deciso che sarei diventato insegnante. Però, come capite bene, pensare a 16 anni di diventare insegnanti è un po' un sogno da sfortunati. Voi usereste un altro termine che inizia sempre con SF. E mai avrei pensato oggi di parlare a 6.000 ragazzi. Allora forse è la vostra è l'età giusta per cominciare a sognare un sogno le cui proporzioni non sono chiare. E magari voi avete quel piccolo sogno di fare lezione a 20 ragazzi e poi ne avete di fronte 6.000. C'è una bambina, elementari. Questa bambina è una bambina di quelle che fanno fatica a concentrarsi durante le lezioni, è sempre distratta. Le maestre non sanno più che fare. C'è solo una lezione in cui questa bambina è a suo agio. La lezione di disegno. La vedi lì intenta con i colori a disegnare. Il mondo attorno a lei sparisce. C'è solo quel foglio di carta e i suoi colori. Allora, un giorno durante la lezione di disegno, che bello, vedete il potere delle storie? Se io adesso mi fermassi e me ne andassi, voi direste, no dai, finisci almeno il racconto. Noi abbiamo bisogno di storie. Ciascuno di noi ha bisogno di raccontare la propria storia a qualcuno. Ma c'è qualcuno a cui raccontare la nostra storia? Lì fuori c'è qualcuno? Torniamo alla bambina. La maestra si avvicina e le chiede, che stai facendo? E la bambina, senza distogliere lo sguardo dal foglio, dice, sto facendo un ritratto a Dio. Come un ritratto a Dio? Nessuno l'ha mai visto Dio. E la bambina continua a disegnare e risponde alla maestra, fra pochi minuti lo vedrete. Quando ho sentito raccontare questa storia da una maestra, ho capito una cosa. Ciascuno di noi, sin da bambino, sa benissimo che della sua vita deve fare un ritratto di Dio. E non lo deve fare inventando qualcosa di strano, lo deve fare esattamente con le cose che sa fare. Quella bambina ama disegnare e farà il ritratto di Dio che nessuno è mai riuscito a fare, ma lei, bambina di 7 anni, lo sa, con i suoi colori. Allora, due cose mi colpivano. Innanzitutto che il Grest, così come i campi scuola dell'Azione Cattolica, sono delle esperienze, ma sono soprattutto delle storie. Seconda cosa, lui parlava, appunto Alessandro D'Avenia parlava dell'insegnante, appunto, che in qualche maniera deve fare una lezione, cioè deve educare l'animatore, l'educatore in queste esperienze estive, soprattutto in queste esperienze estive dove magari anche l'animo e la disponibilità è più, diciamo, appare di più, deve trovare il modo di in qualche maniera entrare in relazione con il bambino o con l'animato. E come deve farlo? Con molta attenzione e soprattutto avendo anche la pazienza di saper ascoltare chi ha davanti. Queste sono due, diciamo, caratteristiche che secondo me l'animatore deve avere. Quindi ascoltare, pensare, ma anche entrare in relazione. Sentiamo il secondo contributo. E allora, ragazzi, partiamo da questa idea qui. Noi siamo su questa terra per fare il ritratto a Dio. La gente nel vedervi deve vedere il volto di Dio. Ma per fare questo non bisogna fare cose strane. Bisogna raccontare la propria storia. Perché quella bambina distratta, pensata come una bambina appunto che non sa fare, non è una brava studentessa, ci riesce con quello che sa fare. E fa il ritratto a Dio. C'è un proverbio ebraico che amo molto che dice che Dio ha creato l'uomo per sentirgli raccontare storie. Allora la prima domanda che io vi faccio e vorrei vi portaste dentro è: tu, metteteci il vostro nome, che storia sei venuto a raccontare? Ripeto, tu, che storia sei venuto a raccontare? E quando la mattina ti svegli e ti guardi allo specchio, e alla vostra età lo specchio è la forma più crudele di verità, perché entri lì dentro quel bagno, già, diciamo, c'è la grande tragedia della sveglia. Suona la sveglia e siamo costretti a venire alla luce. E tutte le volte che noi veniamo alla luce ci facciamo un pianto. La prima volta che siamo venuti alla luce ci siamo fatti un bel pianto, poi mamma ci ha portato alla mammella, abbiamo cominciato a succhiare, abbiamo detto tutto sommato si può fare. Allora, questo venire alla luce è continuo, succede tutte le mattine. E alla vostra età si viene alla luce in una maniera nuovissima, in cui non sono più papà e mamma che mi dicono cosa devo fare. Io ho un nipotino di 2 anni, lo raccontavo già ai ragazzi ieri, che quando cade per terra, prima di decidere se si è fatto male o no, se piangere o ridere, guarda la mamma o il papà vicini, e se loro sorridono e sono tranquilli, lui sorride. Se loro invece si preoccupano, che ti sei fatto? Scoppia a piangere. Pensate ai bambini. Cioè, il fatto che lui provi dolore dipende da come il papà e la mamma lo stanno guardando. Allora non sarà che noi, per poter raccontare la nostra storia, abbiamo bisogno di un paio di occhi che ci sappiano guardare anche nelle nostre fragilità? E per un ragazzo della vostra età, questo venire di nuovo alla luce finalmente ha messo da parte papà e mamma. Tanto che voi fino a qualche tempo fa tornavate a casa e spontaneamente raccontavate tutto quello che avevate fatto a scuola. Stasera voi tornerete a casa, mamma sta cucinando e gli chiede: che hai fatto? Rispondete in coro? Siete in piena adolescenza. Bella, Bella anche questa riflessione, cioè il fatto che dobbiamo essere, cioè gli educatori, gli animatori eccetera e i ragazzi soprattutto devono essere il ritratto di Dio e non inventandoselo ma cercando di essere quello che si è senza saper fare, saper modificare chissà quale personalità, ma con le proprie mezzi, con le proprie diciamo forze, ma anche con le proprie debolezze. E questo è un compito diciamo privilegiato che abbiamo, appunto, perché alla fine noi possiamo fare tante belle cose, possiamo fare dei cambi scuola, possiamo fare delle belle iniziative, ma se non in qualche maniera facciamo anche non comunichiamo ai nostri ragazzi quanto bello è per esempio essere, far parte di una grande famiglia che potrebbe essere quella degli oratori, che potrebbe essere quella dell'Azione Cattolica o degli scout, ma queste famiglie di cosa fanno parte? Di una grande famiglia che è quella appunto dei cristiani. Allora credo che anche i nostri, le belle iniziative, le belle gite, le belle uscite durano poco, hanno il gusto appunto di una moda come ce ne sono tante altre nella nostra società. Essere animatori, educatori, mostrando ai nostri animati, ai nostri bambini, il ritratto di Dio, continuando quindi quell'annuncio che dovrebbe partire appunto dalle famiglie, dai genitori che portano questi ragazzi perché sanno di trovare un ambiente che ha un certo stile e ha un certo appunto messaggio. Sentiamo però ancora un altro contributo. Allora, quel niente è la vostra benedizione, perché vuol dire che finalmente vi siete messi alla ricerca di quella parte più interiore, più interna, che finalmente vuole venire alla luce e non si fa più dire da papà e mamma come deve venire alla luce. Vuole farsi carico della propria libertà. Allora, quando tu chiedi a un ragazzo, senti tu che storia sei venuta a raccontare? Viene una specie di vuoto qui a questa altezza, perché la libertà non è una cosa che sta lì fuori, è qui all'altezza della pancia, e tu lo senti quando ti prende. E allora sei lì davanti allo specchio che vorresti quasi mettere le mani dentro lo specchio per modellare la faccia che hai e adattarla alla storia che vuoi raccontare, ma purtroppo ti è capitata quella faccia. Lui annuisce disperato e vabbè, oh, che capita. Ma la cosa bella è proprio questo, è avere quella faccia. E allora tu cominci a modellare la faccia, ti fai la cresta, ti fai i piercing. Io quando una mia alunna o un mio alunno entra in classe, capelli verdi, dico, oh, finalmente ci siamo, abbiamo cominciato a fare sul serio. Perché vuol dire che è iniziata quella ricerca che prima era lì un po' spentina, tutti buonini buonini, faccio quello che mi dice la mamma e il papà. E invece questa libertà che emerge da dentro. Io sono venuto a raccontare qualcosa di unico, irripetibile, e vado alla ricerca di qualcuno a cui raccontarlo. E infatti ti svegli la mattina, ti guardi allo specchio e 50% degli uomini pensano, oh, meno male che c'è lei, che c'è lui. L'altra metà dice, speriamo oggi di trovare lei o lui. Ecco, allora concludiamo appunto questi contributi che abbiamo preso appunto da Alessandro D'Avenia, ospite principale al Palaturismo di Jesolo nell'incontro appunto della Festa dei Giovani promossa dal Movimento Giovanile Salesiano, per dire questo allora ai nostri educatori, ai nostri animatori: raccontate delle belle storie ai vostri ragazzi durante quest'estate, e queste storie appunto sono la vita dei vostri, la vostra vita e quello che avete di bello appunto scoperto nella vostra esperienza e nel vostro cammino. E adesso, Anna, un altro brano. Parlavamo di ragazzi, di bambini, e quindi Povia, Quando i bambini fanno oh. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro, fanno la pace. così ogni cosa è nuova, è una sorpresa. E proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. I bambini fanno conclude questa puntata ennesima di Fuori di Noi. Anna, allora, hai ascoltato le parole di Alessandro D'Avenia? Sì. Continueremo magari ad ascoltare qualche altro contributo nella prossima puntata di Fuori di Noi, la settimana prossima, sempre e solo quando? Sì, il sabato alle 14 e domenica alle 12.30 su Blu Radio Veneto. Salutiamo la regia di Adi Daici. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento per gli animatori del Grest è sabato 16 giugno, l'acqua estate di Noale. Per iscrizioni rivolgersi all'ufficio territoriale info@noitreviso.it. Ciao a tutti, alla prossima settimana! Ciao, ciao! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.